La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Io vengo da Fidenza, da una famiglia di papà, mamma e 6 fratelli, sono il primo di 6 fratelli, ho già fatto gli studi classici, poi mi sono laureato all'Università di Giurisprudenza e ho cominciato la professione di avvocato. Vista così, questa è una storia come tante. Eugenio è il primo di 6 fratelli. La mamma lo sgrida tanto, dice lui. Nonostante la sua vivacità, Eugenio è bravo a scuola e finisce per prendere la laurea in giurisprudenza. Ma questa non è la sua strada. In effetti, nella vita di Eugenio ci saranno tante strade, alcune interrotte. Questa è la storia di Gene Gnocchi. Ma ero molto vivace, ma anche molto posato, cioè nel senso che a scuola ero bravo, però ero molto scherzone. Infatti ricordo che feci uno scherzo al mio compagno di classe, gli misi un pennino sotto, infilato nella sedia dove lui si sedeva, e fui maestro, mi fece stare a casa un giorno perché insomma si bucò tutti i pantaloni, il sedere, così. Quindi un'altra volta, no, ma è vero, cioè, non sono cose, insomma, sono sempre stato un bambino un po' irrequieto, però a scuola bravo. E un'altra volta stava dicendo? Un'altra volta, così, con un mio compagno stavamo facendo una recita, così. Ricordo che sbagliamo apposta tutte le frasi, sì, le parti della recita, e anche lì insomma ci dissero che era meglio stare a casa. E a casa cosa diceva sua mamma? No, beh, mi sgridava, mia madre mi sgridava molto, direttamente. Mio padre era molto più comprensivo, invece mia mamma ci teneva che facessi bene, però sull'aspetto dei comportamenti, cioè ci tenevano che andassi bene a scuola, e visto che andavo bene, questo insomma, diciamo, temperava un po' tutta la parte, diciamo, comportamento, ecco. Senta, lei è cresciuto come tante persone della sua generazione, vivendo molto la città e stando insieme agli altri bambini per strada a giocare, oppure ha avuto un'infanzia più chiusa? No, assolutamente, vivendo coi bambini a giocare. Io mi ricordo, mia madre faceva la parrucchiera, io andavo fuori la mattina, sì, andavo a scuola, poi tornavo, mangiavo e alle due ero già fuori con i miei compagni, giocavo a pallone, a fare le guerre tra bande, perché allora c'erano molto le guerre tra bande, a fare si facevano i casotti, cioè si costruivano delle capanne con dei rami, quindi eravamo sempre in giro praticamente. Sì, no, sono sempre stato assieme agli altri bambini. E quindi da lì a un certo punto, forse anche giocando con gli altri bambini, è nata la passione per il calcio e quindi questo percorso calcistico? Sì, quella da subito proprio. Io ho sempre avuto un pallone in mano, infatti cioè, ho cominciato a giocare in squadra ufficialmente che avevo 9 anni, giocavo con dei ragazzi, io facevo la quarta elementare, lo ricordo benissimo, giocavo con dei ragazzi di 13 anni perché facevano la terza media e perché ero bravo, no? Da piccolo ero bravo, e quindi ho sempre giocato a calcio. Quella è stata la mia passione, la più grande passione che ho avuto. Quando c'è stata la possibilità di fare il salto al professionismo, in realtà poi io insomma andai all'Alessandria invece che andare al Milan, per tutta una storia che non sto a ripeterti, e da lì insomma ho sempre giocato a un buon livello, ma a livello medio-basso. E se fosse andato al Milan? Sì, sarebbe cambiata la mia carriera, sì, perché avrei sicuramente giocato almeno in Serie B. Sì, insomma, sarebbe cambiata, perché tecnicamente ero veramente bravo, poi dopo insomma sarebbe cambiata. E ha dei rimpianti rispetto a questa cosa? Cioè, ci pensa? No, mai no, però l'unico rimpianto è che adesso non posso giocare perché ho un ginocchio malandato. Il calcio è la passione più forte. Eugenio insegue il sogno di diventare calciatore e intanto studia. Studia giurisprudenza, ma lo fa senza slancio. Non è quella, si dice tra sé, la strada che vorrebbe percorrere. Infatti, mentre sfuma la possibilità di sfondare nel calcio, Eugenio ha già messo in piedi un gruppo musicale. Le serate però hanno poco successo. Eugenio intanto si è laureato, ma neppure la carriera di avvocato decolla. Gli amici che lo seguono nei concerti ridono per le lunghe presentazioni delle canzoni che Gene fa e gli consigliano di fare il comico. È la strada giusta. Oggi Gene Gnocchi è considerato uno dei più brillanti battutisti italiani. Qui è da Fazio. Allora, Hannibal Lecter sì. Diventa presidente del consiglio. No, spieghiamo. No, allora, Hannibal Lecter fa una campagna elettorale improntata alla fine dell'età pensionabile. Cioè, Hannibal Lecter propone di mangiare pensionati, cioè gente. Quindi si risolve il problema della pensione e il problema della crisi. Certo. Hannibal Lecter serve il legittimo impedimento. E certo. Perché lui è imputato, perché lui ha mangiato due vigili urbani di Cremona al cartoccio. E quindi, fammi finire. E allora io gli chiedo, ma perché t'hanno catturato? Lui dice, purtroppo li ho mangiati con ancora sul fischietto. E adesso quando vado in bagno fermo il traffico nel raggio di 100 km, no? Allora, cosa succede? No, allora, spieghiamo. E Hannibal Lecter, serve il legittimo impedimento perché lui era stato condannato in Cassazione in primo grado a 20 anni. E qui spunta fuori l'avvocato. Esatto, in primo grado a 20 anni, ma 10 gli erano tolti per le attenuanti generiche, cioè perché lui aveva mangiato i vigili spinto dalla fame. Dalla fame, certo. Poi altri 10 gli erano tolti per un vizio procedurale, cioè perché i vigili dopo essere stati mangiati non avevano potuto fare rapporto. Certo. 8 anni e mezzo poi gliel'avevano dati per via dell'indulto, quindi lui non solo non era andato in prigione, ma gli rimanevano 8 anni e mezzo per un reato successivo. Sì, sì, da scontare. Quindi in questi casi il giudice ti firma un voucher e tu puoi commettere un reato che valga 8 anni e mezzo. Perfetto. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. C'è chi un giorno ha avuto un malore, ma va? C'è chi sbaglia a parare il rigore. L'amato calcio, gli esordi artistici di poco successo e una strada, quella da avvocato, già amaramente segnata dalla consapevolezza di non poter far bene la professione. Gene Gnocchi, nella Fidenza, che tanto ama, comincia a stare stretto. Vorrebbe lavorare con la fantasia e fare ridere. Fonda così un gruppo musicale e in ogni serata in cui dovrebbe suonare, Gene inizia a parlare al pubblico. Sono monologhi introduttivi alle canzoni, ma sono monologhi lunghissimi e surreali. Il pubblico però si diverte. Gene ha trovato la sua strada. Questa è la storia di Gene Gnocchi, il primo di 6 figli che ha percorso tante strade e ha trovato, quasi per caso, la sua. La vita è bella, è bella, e basta avere l'ombra. Allora, stasera io volevo fare un po' di controinformazione perché volevo dare delle notizie che, siccome si sente solo parlare di crisi e la gente non le dà, sono notizie che sono state tenute quasi tutte segrete. Allora, domani esce una nuova tariffa della Vodafone, si chiama You and Minghi, puoi telefonare solo ad Amedeo Minghi. Non so se andrà bene, però è così. Poi domani compie 90 anni e viene nominato senatore a vita l'ippopotamo della Lines, ve lo dico perché. Sempre domani, cosa ridi? Sono notizie vere che sto dando. Sempre domani esce il nuovo libro di una scrittrice scandinava, Filippa Lagerbach, è un giallo, si chiama Donne che odiano Fabio Fazio. Allora, secondo una ricerca dell'Università di Tokyo pubblicata sull'ultimo numero di Dragon Ball, i bambini che negli anni 70 guardavano Goldrake hanno molte più probabilità, raggiunta l'età adulta, di saper usare l'alabarda spaziale rispetto a quelli che guardavano Daitan 3. Sempre domani ricorre l'anniversario dell'invenzione della fermata dell'autobus. Prima l'autobus non fermava. Sono 25 anni, non sapevate questo? Ve l'ho detto io. Ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. A un certo punto però lei di alternative ne aveva anche caratterialmente, no? Perché si è messo a studiare, andava bene a scuola, ha preso la laurea in giurisprudenza, amante anche della musica, si è messo a fare anche delle performance. Come è andata, insomma, quell'altra parte della sua vita? No, vabbè, è sempre stato, sono sempre state scelte quasi automatiche, cioè gli eventi mi hanno sempre portato a decidere, per cui forse non si poteva decidere altro, quindi alla fine ho fatto la laurea in giurisprudenza, l'ho presa perché l'ho scelta, perché essendo il primo di 6 fratelli così era la laurea più comoda, diciamo così. Poi rendendoti conto che questo non è poi la tua vita, e avendo avuto un padre che mi ha sempre spronato a fare quello che avrei voluto fare veramente, una volta che si è trattato di seguire l'istinto così di comico, comunque di intrattenitore, così non ho avuto dubbi e sono andato, sono partito. Lei ha avuto un percorso artistico con delle tappe, insomma non ha bruciato le tappe, però è diventato poi molto amato dal grande pubblico. Ancora oggi si diverte a fare questo lavoro o secondo lei ci sono molte più difficoltà di quando ha esordito? No, mi diverto molto, ci sono molte più difficoltà perché è cambiata proprio la televisione, poi la crisi ha stretto molto gli spazi, cioè non ci sono più tanti soldi per sperimentare, diciamo, delle idee nuove, quindi anche se hai idee, una volta magari non ci si pensava su e te le facevano fare, adesso invece è già tanto se riesci a fare una puntata a zero per testare questa idea che hai avuto, quindi adesso è molto più difficile. Il mio non è io faccio questo, non è un lavoro, è proprio il mio essere, è proprio la mia vita, quindi non potrei essere diversamente, quindi faccio in realtà quello che vorrei sentire, cioè quando insomma, si scrive sempre quello che si vorrebbe leggere, in effetti poi si dice, si racconta quello che si vorrebbe sentire, quindi c'è proprio una visione del mondo che io non potrei assolutamente cambiarla, quindi l'ho talmente maturata, l'ho talmente radicata leggendo autori che mi sono cari così, che non potrei fare diversamente, quindi non è una cosa che, cioè può essere quello che lei dice vero, e anzi probabilmente sicuramente così, ma non potrei fare diversamente. Lei è molto legato alla sua terra, anche in questa intervista si è sentito molto l'attaccamento per la sua terra, per le sue origini. Ha mai pensato di andare invece all'estero a lavorare? Quello sì, quello perché penso che, cioè, ultimamente sono stato parecchie volte con la mia compagna a Londra. Sono stato a Londra e ho notato che c'è un fermento diverso, ecco, quindi ovviamente non mi dispiacerebbe misurarmi anche con realtà così diverse, anche più complesse. Lei ha dei figli? Io ho 3 figli. 3 figli con l'attuale compagna? Grandi. No, ho 3 figli con mia moglie, mi sono separato e adesso sono con una compagna. E che padre è stato lei? Presente, divertente? Che molto presente, molto molto presente, anzi adesso sto facendo due puntate zero, nelle quali in una ho coinvolto mia figlia come attrice e nell'altra mio figlio come autore, il conflitto di interessi è l'unica possibilità di lavorare, quindi io a questo punto qua mi accodo. La sua vita è stata una vita veramente piena di tante cose, però le volevo chiedere se c'è, guardandosi alle spalle, un momento in cui lei ha avuto proprio la percezione che la sua vita stesse prendendo una direzione diversa. Questo non l'ho mai avuto, cioè sinceramente è una cosa, che una domanda che mi capita di sentire, però non ho mai avuto la sensazione di aver fatto dei salti o delle, cioè per me è sempre stato tutto abbastanza, anche se poi mi rendo conto che guardandola da fuori può sembrare contorta, tortuosa, così, però per me è sempre stato, sono sempre stati sbocchi naturali, non so come dire, quindi mi è sempre, cioè, la sensazione di aver sempre vissuto le cose molto normalmente. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per averci seguito. Potete ritrovarci in podcast, abbiamo una pagina Facebook, l'indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli, ci risentiamo domenica prossima sempre attorno alle 13. Utili a guardare, è forse proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.